Letture di Radio 24. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha elogiato la riforma del mercato del lavoro approvata dall'Italia, ma ha avvertito che la disoccupazione potrebbe crescere ancora, presentando fosche previsioni nel suo rapporto sull'occupazione. La recessione ha duramente colpito il paese, che aveva già subito una forte caduta del PIL nel 2009, e così ci si attende una nuova flessione nel 2012 e un 2013 stazionario. C'è un dato relativamente nuovo nel rapporto OCSE sulle prospettive dell'occupazione per quanto riguarda l'Italia: l'aumento della disoccupazione di lunga durata. Contrariamente ad ogni mitologia sugli effetti benefici della flessibilità in uscita, emerge che chi perde il lavoro difficilmente ne trova un altro entro uno o persino due anni. Nel migliore dei casi, la flessibilità in uscita si trasforma in turnover, in sostituzione di un lavoratore con un altro. Nel peggiore, e più frequente, si trasforma semplicemente in perdita sia di lavoro per chi lo aveva, sia di occupazione complessiva. Oltre alla mancanza di reddito, questo dato nasconde enormi rischi di perdita di capitale umano e professionale e di fiducia nel futuro. Contribuisce anche ad alimentare il fenomeno dei lavoratori scoraggiati, ovvero di coloro che non cercano più un'occupazione ed escono, almeno ufficialmente, dalle file degli attivi. Lo aveva già segnalato una nota dell'Istat l'aprile scorso, allorché aveva evidenziato come nel 2011 la percentuale degli inattivi sia aumentata. Ciò, in parte, è dovuto all'alta incidenza dell'inattività tra le donne. Questa, a sua volta, rimanda non tanto a scelte libere, quanto a difficoltà sia a trovare lavoro, specie nel mezzogiorno, sia a conciliarlo con le responsabilità familiari in un contesto di servizi scarsi e in via di ulteriore riduzione. Ma l'inattività è in aumento anche tra gli uomini. Le cifre peggiorerebbero ulteriormente se si tenesse conto della sottooccupazione, ovvero di chi lavora part-time, non per scelta, ma perché non trova altro. Anche loro sono aumentati nel 2011 e costituiscono il 90% di tutti gli occupati part-time. È vero che la crisi occupazionale ha colpito in modo sproporzionato quella minoranza di giovani tra i 15 e i 24 anni che non sono più a scuola e che non sempre possono accedere all'apprendistato. Ma il rapporto OCSE segnala che disoccupazione di lunga durata, scoraggiamento, part-time involontario sono fenomeni in crescita anche tra gli adulti. In particolare, l'aumento della disoccupazione di lunga durata riguarda anche gli uomini tra i 24 e i 54 anni. A fronte di questa situazione, il rapporto OCSE valuta con favore la riforma del mercato del lavoro di recente approvata, specie nella parte che riduce la precarietà all'ingresso e allarga le tutele per chi ha perso il lavoro. Sappiamo tuttavia che entrambi questi elementi sono molto più ridotti di quanto non fosse auspicabile, lasciando fuori ancora molti lavoratori e lavoratrici. Non solo. Gli emendamenti che i partiti stanno cercando di far approvare, invece di rafforzare questi due elementi in una direzione maggiormente universalistica, sembrano andare in direzione di un loro depotenziamento e di un loro rimando. Temo che ciò non servirà a creare maggiore occupazione, mentre cristallizzerà ulteriormente le disuguaglianze nel mercato del lavoro. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Chiara Saraceno, Mercato del lavoro e disuguaglianze, pubblicato da Repubblica di mercoledì 11 luglio.